vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo risollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati. Buon pomeriggio, Franco Pianzaniti in redazione, Gianmarco Ferronato al debutto in regia, Giovanni Capuano, io che vi parlo dal microfono, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter, @ tutti convocati. In questo giovedì di vigilia della partita della nazionale in Armenia e con i giornali che sono pieni di storie di bad boys, cattivi ragazzi, quelli che se ne vanno e poi si pentono, quelli che in nazionale non gli vogliono più e quelli che a soli 22 anni sono già all'ultima spiaggia. Insomma, ragazzi, cattivi ragazzi. Cattivi è tutta musica che batte, il senso della proposta visto con gli occhi di chi sta giù è dire rompo il contratto, che Dio salvi la regina. Ragazzi cattivi tutto come prima stanno fuori. Buon pomeriggio a Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. Buon pomeriggio, bentrovati. Buon pomeriggio Matteo, è la settimana dei bad boys. Ibrahimovic che prima se n'è andato e adesso ha fatto sapere che gradirebbe tornare, oppure Cassano che in nazionale ci andrebbe volentieri ma che non sarà richiamato, o Balotelli. Oggi un po' tutti scrivono che quella contro l'Armenia e tre giorni dopo l'impegno con la Danimarca sarà la sua ultima spiaggia azzurra. Qual è la storia che ti attira di più? Ma forse questo di Balotelli, fin fine, perché di lui siamo, come dire, obbligati ovviamente a parlare. Torna al centro della scena, torna con questa partita per l'Italia, che è una partita importante in Armenia, neanche scontata, neanche facilissima. E è chiaro, insomma, che questo ragazzo, che ormai ha 22 anni, incomincia a crescere anche lui, io credo che sia un po' uno spartiacque, un bivio della sua carriera. Se lo stesso Prandelli incomincia ad avere perplessità e avanzare dubbi e dargli una sorta di ultima chance, di ultima spiaggia, credo che in effetti sia veramente difficile la gestione di Mario Balotelli. Io ricordo i contatti, se volete dire la vostra in diretta, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, potete scriverci anche su Twitter, @ tutti convocati. Saluto anche Evaristo Beccalossi, ciao Beck. Eccoci, buongiorno a tutti, ciao. Cosa ne pensi di Balotelli? Siamo davvero all'ultima spiaggia, come oggi scrivono in tanti? Si scrive, si parla, si scrive tanto, si parla tanto, poi magari va in campo, ti fa due gol e si dimentica tutto. Credo che è lui che debba dare un segno importante, nel senso che il talento non si discute e... Però ecco, è chiaro che deve fare quel saltino di qualità che gli potrebbe permettere appunto di diventare uno dei giocatori più forti. Tu sei uno di quelli che dice chi se ne importa di come si comportano fuori, l'importante è che poi in quei 90 minuti diano qualcosa di più. Cioè non solo per gli scolaretti, con tutto il rispetto, mano nella mano, ognuno ha una propria personalità, ha una propria estrosità, chi si concede qualcosa basta che in campo faccia vedere tutto il suo valore, però anche nei comportamenti c'è un limite a tutto. Se lo fai una volta ogni tanto va bene, ma se diventa prassi non va più bene. Matteo Marani, comincia un po' a stufare però questo tira e molla di Prandelli. Ha detto l'ha convocato perché può essere utile a questo gruppo, però sono rimasto male per i suoi comportamenti. Insomma, o Balotelli può stare in questa nazionale oppure tanto vale che ne esca. Ma guarda, secondo me non ne può prescindere, perché comunque di Balotelli abbiamo avanzato, come dire, tutte le perplessità, quello che riguarda il suo privato. Ma sul campo, quando è Balotelli, è il più forte giocatore italiano, il più forte attaccante italiano, e credo che su questo non ci siano dubbi, e quindi lui non vi può rinunciare. L'ha dovuto ammettere quasi, come dire, controvoglia, questo fatto che, rivedendo le immagini dell'europeo, alla fine si è dovuto piegare alla forza di Balotelli. Secondo me la verità è che bisognerebbe fare i calciatori, dato c'è Evaristo e mi fa piacere che saluto, bisognerebbe fare i calciatori dai 30 ai 40 anni, quando la testa è diversa. Il problema è che ovviamente le gambe e il fisico non sono più quelle, perché spesso succede che un grandissimo talento, una grandissima qualità ti arrivano in un'età in cui ancora non sei formato. Questo non riguarda solo Balotelli, probabilmente anche tanti altri ragazzi di 22 anni che non sanno esattamente, come dire, non hanno definito la loro identità, il loro comportamento, il loro carattere, la loro personalità, il loro temperamento. Di solito avviene un po' più tardi la maturazione, o almeno nella società di oggi. Io credo che questo sia un po' un paradosso, ma spesso sono grandi, come dire, grandi campioni su non su gambe, ma su teste ancora non preparate per esserlo. Tu, Evaristo, hai fatto il calciatore troppo presto nella tua parabola, nella tua carriera, in cui hai avuto un rapporto difficile con la nazionale, anche se più per questioni di valutazioni tecniche e sì, tattiche, non comportamentali. Non avevo tempo di rispondere alle convocazioni. O forse ogni tanto si dimenticavano di chiamarti. Non lo so, ma ecco passata. No, intanto ringrazio, anche approfitto per ringraziare Matteo, perché su Guerin un suo giornalista mi ha fatto una bellissima intervista. Scusami, approfitto. Prego. No, poi volevo dire che per quanto riguarda anche l'estrosità la si può concedere, però l'estrosità è anche gioia di giocare, di fare le cose, di fare, cioè non accetto magari che uno non è come gli altri, magari gli si concede un qualcosa, ma non bisogna mai dimenticare che bisogna essere felici, perché chi gioca a calcio deve essere felice. I ragazzi cattivi, e nessuno che li accompagna, dritti nelle scarpe a fare il giro delle città, ho tempi di pioggia e denti stretti che fanno male. Siamo nel paese dei patti lateranensi. Io, se non andavo a messa, non giocavo nemmeno nella squadra dell'oratorio. Sono cambiati i tempi, ci ha scritto un amico da casa al 349-238-6666. E ancora un altro messaggio: la verità è che abbiamo bisogno di giocatori come Balotelli, come Best, come Meroni e come Cantona, sono giocatori da sballo. Però ci scrive anche Luciano da Biella: basta, non se ne può più di Balotelli, in qualsiasi altro ambiente di lavoro sarebbe fuori da tutto. Matteo Marani e Evaristo Beccalossi: uno che invece è uscito fuori da tutto sembra essere Antonio Cassano. Intanto ricordo 800 24 00 24 per chi vuole telefonare in diretta. Matteo. Tanto non è un ragazzo, non lo posso mettere in questa categoria, perché è un uomo, voglio dire, ha 30 anni compiuti, con figli, un altro in arrivo, non credo che lo possiamo ancora scrivere, inserire fra i ragazzi terribili, fra i bad boy. È un uomo che certamente, come dire, ha molte sfaccettature, una gestione anche lui complicatissima. Secondo me all'Inter in questo momento sono stati molto bravi, stramaccioni, l'ambiente, a metabolizzare Cassano, però sai, Cassano può esplodere da un momento all'altro, da un giorno all'altro, in qualunque ambiente è successo, cioè improvvisamente a Sampdoria sembrava a casa sua, era tutto perfetto, poi ha dato di matto in scandescenza contro il presidente ed è successo quello che è successo. Il Milan aveva promesso che sarebbe stata l'ultima tappa, dopodiché anche al Milan non si era più trovata, era successo a Roma, a Real Madrid, cioè lì sul discorso di Cassano è un discorso particolare. Tu avresti rinunciato, perché Prandelli pare comunque aver rinunciato in questo progetto che deve portarci ai mondiali brasiliani. Ma sai, voglio dire, ma Balotelli, come dicevo prima, non puoi rinunciare. A Cassano sì, perché Cassano c'ha già 30 anni, è un giocatore diverso, è chiaro che lui sta già ragionando su Rio, sui mondiali, e quindi deve guardare anche in avanti. Per allora Cassano aveva 32 anni, non sai da allora come risponderà, che cosa sarà, mentre da Balotelli per il momento devi ancora scommetterci, devi ancora puntare su Balotelli. Su Cassano ti puoi anche rinunciare e aspettare, vedere cosa farà, un po' il discorso che ha fatto Prandelli per Di Natale, vediamo cosa fa, l'ha detto anche per Cassano, vediamo che cosa fa, se da qui ai prossimi mesi arrivare a ridosso il mondiale continua appunto e non ci sono casi, cose particolari, magari poi lo chiama anche. Alessandro su Twitter ci ha scritto: smettetela di dire sciocchezze, ha usato in realtà un altro termine su Balotelli, dovete dirmi un giocatore più forte di lui in attacco italiano che prendo nota. E poi invece al 349-238-6666 Roberto: quelli che si impuntano e ragionano come Luis Enrique non vanno da nessuna parte. Sta dividendo molto i nostri ascoltatori, Matteo ed Evaristo, il tema dei bad boys, soprattutto legati alla nazionale. C'è anche chi scrive: i nostri commissari tecnici si stanno sempre a discutere fuori classe perché sono degli allenatori mediocri. Evaristo, c'è anche chi chiede se a Balotelli servirebbe uno spogliatoio di gente come te o di gente con grandi attributi. Ma io, cioè, insomma, l'ho visto crescere Mario, l'ho visto all'Inter, poi sono stato su in Inghilterra anche a City, è tutto discutibile e come fai, nell'attimo che pensi di averlo recuperato ti esce con qualcosa di strano. quando magari dici non lo voglio più, magari lo metti e ti risolve i problemi. Per se stesso deve migliorare, perché cioè, a livello calcistico cosa vuoi dire? Cioè, sei di fronte a un talento e non puoi dirgli niente. Per quanto riguarda Cassano, credo che insomma, arrivato a 30 anni, ha in mente di chiudere la carriera, magari un po' di anni all'Inter e poi tornare alla Sampdoria. Insomma, se si fa trovare pronto, perché no pensare ai mondiali? Cioè, un allenatore deve vedere chi sta giocando bene, chi è determinante. Poi la gestione, credo che abbiano la personalità, un allenatore debba avere la personalità di portare via i migliori. E poi dopo, quando li hai lì, li usi cercando di approfittare insomma delle caratteristiche e del rendimento di questi giocatori. Ma tu avresti rinunciato oggi per questo doppio impegno a Cassano? Giustamente ci ricordava qualche giorno fa Fascetti, attenzione perché queste sono due partite da vincere, altro che fare esperimenti, deve giocare chi sta meglio. Lui, e lo abbiamo sentito, lanciava una provocazione, secondo me addirittura diceva in questo momento il giocatore italiano più forte, più determinante è Totti. Beh, io per battere Armenia e Danimarca e mettermi sicuro in questo girone che può complicarsi, chiamerei addirittura Totti. Ma io sono sempre stato aperto anche in Sudafrica quando un allenatore ha detto no, non porto questo. Cioè, credo che chi arrivi lì debba avere carisma e personalità di portare quelli che stanno giocando bene e possono essere utili alla nazionale. Poi dopo sta a te saperli gestire. Cioè, non mi piace quando a prescindere dico io non chiamo quello perché ce l'ho con quello, perché mi ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro. Cioè, bisogna pensare agli interessi della nazionale, e poi ti ripeto, chi arriva a quei livelli lì deve avere carisma e personalità per saperli gestire. Questo io penso. Prima di chiudere invece su Ibrahimovic da casa, c'è chi ci scrive: Cassano e Balotelli hanno preso da piccoli pochi calci nel sedere, Gabriele da Torino. E poi invece ancora Ibrahimovic è la prova di quello che sta dicendo Beccalossi, è una testa calda, però lo chiamano perché risolve le partite. E poi ancora l'importante è che poi non si faccia come dopo i mondiali del 2010, quando siamo usciti facendo una brutta figura e tutti hanno detto che quella nazionale aveva bisogno di Cassano. Matteo Marani, per chiudere su Ibrahimovic, sgomberando il campo da qualunque suggestione, perché il suo ritorno a Milano è evidentemente qualcosa per cui non esistono condizioni tecniche ed economiche, a me personalmente questa versione un po' buonista, imborghesita di Ibra colpisce, perché lui ha sempre avuto questa immagine del duro che non si gira mai indietro, anche a costo di apparire antipatico, cattivo. Lui non ha mai nascosto questi lati del suo carattere. Dà l'idea davvero di esserci rimasto male quest'estate, per il fatto di essere stato venduto al Paris Saint-Germain. Sì, diciamo che questo un po' si sapeva fra le righe, nel senso che lui era contrario alla cessione, è stato preso lui stavolta in contropiede, cioè per la prima volta non aveva scelto lui di andarsene, ma sono stati gli altri a scegliere di mandarlo via per questioni logicamente economiche, che sono quelle che giustamente ricordavi tu, impediscono il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Quindi questo, diciamo, non c'è dubbio che lui abbia stavolta, secondo me, parlato anche con sincerità. Lui Milano stava benissimo, la famiglia sostanzialmente continua a gravitare su Milano. Io sono convinto che lui vorrebbe anche tornare a Milano, ma non ci sono più i presupposti economici, perché siamo in un altro mondo. Però Ibrahimovic, se posso permettere, visto che li abbiamo accomunati tutti, li abbiamo messi insieme i tre, è un discorso diverso. Perché non è un cattivo ragazzo. No, è un cattivissimo ragazzo, però anche un campione. Quello che io voglio augurare a Balotelli è di continuare anche a essere un cattivo ragazzo, ma diventare nel frattempo un campione, perché io non credo ai santi, cioè non bisogna essere santi. Per esempio, uno che non è certamente un santo e che ha una vita privata abbastanza movimentata è Cristiano Ronaldo. Però c'è una differenza tra avere una vita movimentata, magari condita anche di divertimento, ed essere un campione in campo o non esserlo. Sono due cose diverse. L'impressione di Balotelli che non stia facendo quel tipo di salto lì, che Ibrahimovic invece ha già fatto, perché un uomo comunque è un giocatore che determina, dove va determina, non ci sono dubbi. Quindi è suggestivo da un punto di vista giornalistico, tra l'altro i giornali piacciono da impazzire, i cattivi ragazzi, insomma, conquistano un titolo ogni volta, però direi che nei tre sono tre situazioni abbastanza diverse. Non c'è dubbio. Grazie Matteo Marani. Evaristo Beccalossi, volevo aggiungere, prego, una cosa su Cassano e Balotelli. Cioè, la dimostrazione di com'è il calcio e di colpi di certi giocatori che lasciano desiderare fuori, però in campo risultano determinati. agli europei, Cassano e Balotelli, uno non era titolare nel City e aveva problemi, Cassano ha avuto problemi con la malattia e praticamente con questi due giocatori siamo arrivati in finale del campionato europeo. Sì, comunque sono giocatori che già adesso sono importanti, al di là dei loro limiti caratteriali. Esatto, e dobbiamo essere in grado di saper scindere, da meglio, per scindere esatto. il giudizio. Non accostiamo Meroni a questi qui, lui era un poeta e un artista, ci ha scritto Corrado, Prandelli deve fare l'allenatore e non il prete, o ancora ci scrive Beppe da Padova, basta Cassano, non ha mai dato nulla se non problemi e colpi di testa, e poi via via, insomma, ancora messaggi, il tema divide, l'ultimo flash, Evaristo, tu ci credi a Ibrahimovic che si sia stancato già del livello del campionato francese? Stancato no, però è un calcio diverso, lui è un giocatore che secondo me ha bisogno di essere stimolato da sfide, c'è il campionato francese, anche se è una bella esperienza che vive a Parigi, però mi dà la sensazione che sia una situazione, non dico piatta, però tranquilla. Io ci credo perché al Milan so che stava bene, però non ci sono i presupposti per un suo ritorno, questo è un dato di fatto per la questione economica. Non c'è dubbio. Dimmi un nome perché ce lo chiedono da casa. Chi è più forte tra Balotelli, Di Natale, Giovinco, Destro o Diamanti? Chi voti? Io calcisticamente voto Balotelli. Balotelli tutta la vita. Grazie al Beck. Sì. Ciao, buona giornata. Grazie ad Evaristo Beccalossi. Riccardo dalla provincia di Bari ci ha chiamato all'800 24 00 24. Riccardo. Riccardo, pronto? Prego. No, non sono Riccardo, sono Pino. Pino da Pescara, prego. Sì. No, volevo far riflettere un po' quello che riguarda il discorso sui Bad Boys. Cioè, una volta io ho giocato fino al C2, insomma, quindi ho 49 anni. Io mi ricordo che la scrematura si faceva all'inizio dei Bad Boys. Adesso con giocatori affermati come Balotelli, perché non si può dire che non sono affermati, Inter, Manchester City, che ne so, oppure qualche altro giocatore di 22 anni. Quindi è una scrematura che viene fatta all'inizio. Adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il processo ai fenomeni? Non mi sembra il caso, insomma. Al contrario, le volevo dire che per quanto riguarda le votazioni che ha dato su Beccalossi a questi giocatori che diceva lei, io voterei per Verratti. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666. Stanno arrivando tantissimi messaggi sui Bad Boys che animano questa settimana senza campionato, senza coppe, ma di attesa del doppio impegno della nazionale. Ci scrive Francesco da Verona: io non credo che Ibrahimovic si sia stancato di 15 milioni di euro e poi non credo che il Milan possa dargliene altrettanto. Gianni da Brescia: Ibra ha nostalgia del Milan solo perché in Francia gli hanno aumentato le tasse. E invece su Balotelli, Giancarlo: Balotelli fa quello che vuole perché tanto lo convocano lo stesso. E ancora: il calcio non è il grande fratello, ci scrive Daniele, bisogna valutare cosa fa un giocatore durante le partite. Gianluca: siamo arrivati alla finale per giocatori come Pirlo ed altri e non per Cassano e Balotelli. Vero, assolutamente, però vero anche che Cassano e Balotelli in un paio di occasioni qualche castagna dal fuoco a Prandelli quest'estate l'hanno tolto. Su Twitter invece @ tutti convocati, diciamo la verità, scrive Gianmarco: Balotelli oggi è l'unico attaccante decente che abbiamo, deve giocare senza se e senza ma. Riccardo dalla provincia di Bari, buon pomeriggio. Aspetto da 20 minuti. Mi spiace, l'abbiamo chiamata prima, ma ha risposto l'amico da Pescara. Prego Riccardo. Niente, volevo intervenire per dire la mia sulla questione Balotelli-Cassano. Io la penso in maniera completamente diversa da, o meglio, forse sarò un po' troppo rigido, però per me il fuoriclasse è il campione, e il campione che si dimostra tale non soltanto in campo ma in tutti gli aspetti della sua vita. Per cui i colpi di testa, se possono andar bene una volta, potrebbero al massimo andar bene due, dopodiché occasioni non te ne si possono dare più. Dimostri in quel modo se vali la nazionale e se sei davvero un campione. Io credo che tanto Balotelli quanto Cassano abbiano avuto più di un'occasione per dimostrare di poter essere utili alla nazionale e alle loro squadre, e hanno fallito e stanno continuando a fallire perché sono dei talenti naturali. non saranno mai dei fuoriclasse nel senso vero del termine, perché il fuoriclasse è colui che con disciplina sa che come si deve comportare in campo e fuori, perché i grandi risultati si ottengono non soltanto con i colpi funambolici o con i colpi di classe una volta tanto dimostrati in campo, ma si dimostrano quotidianamente con la serietà negli allenamenti, la serietà nei comportamenti, perché poi oltretutto un giocatore che ha 22 anni, un giocatore ha mediamente, la vita di un giocatore dura mediamente 10 anni, o meglio a certi livelli, poco più a seconda delle situazioni, però soltanto i fuoriclasse alla Zanetti possono arrivare a giocare a 40 anni mantenendo i ritmi di un ragazzo di 20 anni. Quello è un fuoriclasse. Quello è un esempio, secondo lei, Riccardo? Nel vero senso della parola, perché anche se non è dotato tecnicamente allo stesso livello di Cassano e di Balotelli, nell'arco della sua carriera avrà dato alla sua squadra, alla sua nazionale e allo sport in generale, al calcio in particolare, qualcosa che Balotelli e Cassano se lo potranno dimenticare, perché di Balotelli e Cassano ci si potrà ricordare del colpo di testa in una partita o della giocata particolare in una determinata occasione di un giocatore come Zanetti. Insomma, mi pare di capire, Riccardo, che per lei Balotelli è già fuori. Teddy dalla provincia di Treviso, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Sono Teddy dalla provincia di Treviso, Vittorio Veneto. Prego. Sono praticamente un napoletano di sangue. Volevo dire, riguardo un ascoltatore di ieri che ha chiamato, un tifoso del Napoli, riguardo il presidente, sì, che diceva di fare due acquisti per gennaio, no? Lei come la pensa? E le chiedo di abbassare la radio, perché altrimenti c'è il rientro, perfetto, che è fastidiosissimo. Perfetto. Prego. Ok, ecco qua. Ma io penso che dobbiamo dare tanto al presidente e stare proprio zitti e andare avanti, perché comunque 4 anni fa non eravamo veramente nessuni, cioè eravamo proprio fuori da tutto. Quindi è un presidente questo che ci ha portato una torta al vertice. Avere pazienza, e sono convinto che il presidente penserà alla città, ai tifosi e alla squadra, insomma, questo volevo dire. Grazie Teddy. Gianni l'ultima da Caltanissetta. Posso dire l'ultima cosa? Prego Teddy, veloce però. La seguo ogni giorno, sì, velocissimo. 45 anni, sangue napoletano, vissuto Maradona, volevo chiederle, però quando ha tempo ne parlerà da lei. Messi Maradona. Perché Messi non chiediamo di venire a giocare in Italia? Perché Messi non ce lo possiamo nemmeno permettere, ma non Messi ingaggiato da qualche squadra italiana, ma io credo nemmeno per un amichevole. Dopodiché, se la sua domanda sottintendeva una valutazione se Messi nel campionato italiano riuscirebbe a essere decisivo come in quello spagnolo, io le rispondo che probabilmente Messi chiuderà la sua carriera e verrà ricordato come il miglior giocatore del mondo di sempre. È altrettanto vero che quando ha incrociato squadre italiane, Messi in Europa ha fatto fatica contro l'Inter di Mourinho, comunque ha fatto fatica e ha segnato, credo, soltanto su calcio di rigore contro il Milan nelle 4 partite che ha fatto nell'arco di 2 stagioni. Quindi certamente questa è una curiosità che purtroppo temo saremo obbligati a tenerci fino alla fine della sua carriera per questioni di carattere economico. Gianni da Caltanissetta, buon pomeriggio. Questo è l'ultimo argomento. Io direi che per un batto come Maradona, Messi non so fino a che punto potrebbe arrivare. No? Sì, anche se questa è anche un po' una cattiveria, perché la storia di Maradona la conosciamo, è emersa, però è anche vero che emergere molto tempo prima, non all'ultimo. Sì, però è anche vero che è ingeneroso associare il talento di Maradona a quelli che sono stati i suoi vizi, i suoi comportamenti fuori dal campo. Gianni, mettendo un arancino per fare certe cose vuol dire che c'erano. Comunque, prego, dai, dire, il suo intervento. Volevo dare un bocca al lupo all'Italia. Le piace questa nazionale? Dire, amici napoletani, che se vengono a Torino, giocate contro la Juventus a pallone, non a rugby come fanno loro, oppure tutti in difesa a catenaccio. La partita dura 20 minuti, facciamo 3-0 e mandiamo a casa di nuovo. Va bene, grazie Gianni. Cambiamo argomento, parliamo di calcio scommesse, perché oggi sui giornali c'è molto del nuovo filone barese, di quanto sta emergendo dalle indagini della procura di Bari. C'è un giornale, l'unico, che scrive dell'esistenza di un nuovo pentito. Insomma, noi torniamo a parlare del calcio scommesse. Mi vedo un'altra partita, andiamo fino in fondo, trucchiamo tutta la A. Buon pomeriggio a Marco Mensurati, collega di Repubblica. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a voi. Autore anche dello Zingaro e lo Scarafaggio, un libro che sotto forma di romanzo racconta molto delle carte, delle inchieste fin qui note sul calcio scommesse, diventerà anche un film. Oggi su Repubblica è stato l'autore dello scoop, perché di questo si tratta, dell'esistenza di un nuovo pentito tra i calciatori, insomma un nuovo frammento di quel muro di omertà che è stato steso intorno a questa vicenda all'interno del mondo del calcio, che piano piano, Marco, però sembra cadere. Sì, questa è l'impressione, anche se in realtà c'è una, sembra quasi che il sistema stesso non voglia che questo muro di omertà poi alla fine cada. Se andate a guardare come fin qui si sono risolti tutti i casi pian piano aperti, troverete che tutti quelli che si sono pentiti hanno preso condanne fino a due anni e mezzo di squalifica. L'eroe Farina, per avere un futuro, ha dovuto emigrare in Inghilterra. Sempre che trovi un contratto. Sì, nella Aston Villa, leggevo ieri, insomma c'era una possibilità. E poi insomma, invece chi è stato accusato, chi è stato trovato in maniera più o meno acclarata, con le mani nella marmellata, ha invece ricevuto gli sconti che il sistema avrebbe dovuto riservare ai pentiti. Io vi faccio anche a voi la domanda, cioè secondo voi all'esplodere del prossimo scandalo troverete qualcun altro disposto a raccontare come sono andate le cose, oppure troverete solo gente che cercherà di andare il più in fretta possibile al TNAS a prendersi il suo bel 60% di sconto? A patteggiare, ma io rilancio, ci sarebbe anche da aprire una riflessione sullo scetticismo e anche sul fastidio con cui nell'estate del 2011 furono accolte le parole del pubblico ministero di Cremona Di Martino, quando parlava delle sue sensazioni di un mondo marcio ben più ampio di quella che era la punta dell'iceberg che stava emergendo. Allora in tanti se la presero per quelle parole, lo invitarono a lavorare piuttosto che a parlare sui giornali. Oggi, a più di un anno di distanza, ho l'impressione che rilette quelle parole fossero più che altro una profezia. Guarda, le parole di Martino in realtà hanno questa simpatica caratteristica, che sono veramente sempre state profetiche. A un certo punto Di Martino disse: ma io suggerisco al calcio di pensare a qualche misura straordinaria per uscire da questo problema, che non è un problema di singoli che sbagliano, ma è un problema evidentemente correlato al sistema. Quando hai 200 persone che vengono indagate per essersi venduta la partita, evidentemente non è che ci sono 200 malviventi, è che il sistema evidentemente era sfuggito di mano. Allora magari si potrebbe pensare ad un'amnistia, solo che quell'amnistia così in chiaro, così trasparentemente proposta da De Martino, avrebbe comportato la dimissione dai propri incarichi del presidente federale Abete e dell'ufficio indagini, quindi di Palazzi, che avevano di fatto perso il controllo del sistema. Il sistema rispose alla proposta di Di Martino trattandolo come un pazzo, dicendo: ma quale amnistia? Abbiamo tutti gli strumenti per contrastare questo fenomeno. Bene, a un anno e mezzo di distanza da quelle parole potete osservare come in realtà il fenomeno sia completamente fuori controllo, completamente, e come di fatto si stia facendo passare un'amnistia strisciante, senza però che nessuno paghi il prezzo politico di quella mossa. A colpi di patteggiamenti, di sconti, di trattative davanti al TNAS, cosa che del resto era abbastanza evidente già a partire da quest'estate, con il primo grado delle sentenze di quello che fin qui è stato il troncone più importante di tutta questa vicenda. Era abbastanza evidente che arrivati davanti al TNAS ci sarebbe stata forse una trattativa più politica, meno legata ai fatti. Chiedono da casa, Marco Mensurati, se è un pentito vero o un altro che vuole sconti e dice cose senza prove. Andrea da Torino. Ma in realtà i pentiti, anche quelli che ci sono stati finora, sono tutti stati pentiti veri, perché la giustizia intende per pentito colui che, raccontando delle cose, si mette da solo nei guai, cioè racconta cose che riguardano anche le proprie specifiche responsabilità. E quindi questi sono quelli che ci sono sempre stati. Poi trovare le prove e trovare i riscontri sta alla giustizia che amministra il pentito, nel caso specifico la giustizia sportiva. E il problema non è tanto se il pentito è vero o non è vero, il problema è se il magistrato è capace o non capace di trovare dei riscontri, laddove è capace si procede, laddove non è capace non si procede. Qui la domanda evidentemente allude al ruolo di Carobbio e di Masiello. Sì, a quell'etichetta che gli è stata attaccata anche dalle sentenze della giustizia sportiva, e quindi non un bugiardo incallito, ma non completamente credibile. Lì il concetto è diverso, perché ciascuno racconta quello che a lui risulta, e poi, ripeto, sta alla magistratura trovare o meno riscontri a questi racconti. Ora il problema lì è che la procura penale, la procura sportiva di Palazzi, fino al caso Conte, non aveva mai fatto lo sforzo di andare a riscontrare le parole dei pentiti, aveva sempre ritenuto che questi erano arrivavano come attendibili dalla procura penale e come attendibili andavano trattati. Ed è sulla base di questo comportamento che prima di Conte sono stati condannati a pene feroci quasi tutti. Nel caso di Conte, io ripeto, secondo me giustamente, ma avrebbero dovuto farlo anche prima, si è cercato un riscontro che molte volte non è stato trovato, diciamo, perché questo riscontro non c'era o per incapacità dell'investigatore. Fatto sta che poi alcune dichiarazioni non sono state riscontrate. Questo però non toglie nulla alla bontà dei racconti fatti da loro, dai vari pentiti, ne toglie, diciamo, l'efficacia probatoria. Questo ovviamente io mi auguro che avverrà anche con questa nuova ondata, ma mi auguro che avvenga con tutti. Il problema è cercare un'uniformità di trattamento, perché non trovo molto corretto che per Conte si siano cercati riscontri come accade in Cassazione, per un processo in Cassazione, mentre per Doni è bastato il monosillabo Do per portare a 3 anni di squalifica. L'impressione è che pesi e conti molto anche la forza, l'impatto di un collegio difensivo, quello della Juventus e di Conte, era evidentemente di tutto rispetto. Marco Mensurati, prima di salutarti, io ho letto davvero con orrore la descrizione del rito del bacio alla scatola con le mazzette nello spogliatoio del Bari, perché questo è davvero un rituale, così come descritto e preso da questi verbali, che rimanda alle grandi organizzazioni criminali, cioè qualcosa che dovrebbe essere lontanissimo dallo spogliatoio di una squadra di calcio o comunque di una società sportiva. Ma guarda, noi ce lo siamo dovuti far spiegare più volte, perché anche a noi risultava assolutamente incredibile. Dopodiché, diciamo che di cose incredibili in questa vicenda ce ne sono a tonnellate, non ultima il rinnovo della carica di Palazzi nella sua poltrona per altri 4 anni, fatta da parte di un presidente federale in uscita, cioè Abete deve essere rieletto, quindi diciamo che una decisione così importante per rispetto delle istituzioni avrebbero dovuto prenderla una volta rinnovato il mandato. Non si poteva prima. Aspettare. Quantomeno per rispetto dell'istituzione che si ricopre. Va bene, grazie a Marco Mensurati. Ci scrivono da casa: l'unica soluzione sarebbe abolire le scommesse, però non è possibile perché ci guadagnano tutti, tranne il comune scommettitore. In tanti ci stanno scrivendo che il calcio e il calcio scommesse in fondo sono soltanto due facce dello stesso business e dello stesso affare, che muove tanti soldi. Danilo dalla provincia di Monza, buon pomeriggio. Danilo. Sì. Buon pomeriggio, prego. Ciao. No, volevo rispondere a quell'ascoltatore di prima che diceva che parlava bene di Zanetti, giustamente grande campione, professionista, contrariamente a Balotelli, a Cassano. Però lo definiva fuori classe. Definiva fuori classe. Io dico solo una cosa, che se a San Siro dovessimo andare a vedere 11 Zanetti, a San Siro non c'era più nessuno. Lei dice che non si divertirebbe. Quindi bisogna fare un po' e un po'. 11 Zanetti non riempie lo stadio, 11 Balotelli magari sì. Va bene, grazie Danilo. Emilio da Piacenza, buon pomeriggio. Sì, pronto. Prego. Senta, io sarà 40 anni che non mi interesso più di sport. Leggo i giornali, ma le pagine dello sport le salto a pie pari. Voi vi dimenticate di dire che questi ragazzi, giovani, meno giovani, sono 150 persone che guadagneranno qualche milione all'anno di stipendio. Quindi parlare di sport in mezzo a queste cifre di stipendi mi sembra sempre esagerato. Volevo aggiungere che Balotelli magari vuol venire in Italia, perché Hollande ha messo giù una tassazione del 75% sui suoi redditi, per quello che forse gli conviene tornare in Italia. Ibrahimovic è dice. È una questione economica, secondo me, non psicologica o di elementi spirituali, diciamo così. Va bene, grazie Emilio, anche se io vorrei ricordare sommessamente a lei e anche a tutti gli altri che ci hanno scritto su questa questione della tassazione del governo francese, che in realtà Ibrahimovic è d'accordo con lo sceicco, e quindi quei soldi delle tasse non le mette certamente Ibrahimovic, che guadagna i suoi 15 milioni netti all'anno. Gianfranco da Torino, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo rispondere a quell'ascoltatore che ha chiamato prima, che parlava anche lui di Zanetti, tanto di cappello e tutto quanto. Ma se allora parliamo in questo modo, Maradona non doveva più giocare a calcio. E poi? Ah, non c'è dubbio, io concordo pienamente con lei, benvenga Zanetti, però la lista dei grandi talenti, dei veri fuoriclasse nel senso tecnico del calcio, quindi quelli alla Maradona che hanno avuto una vita sregolata, è lunghissima, e non per questo sono stati esclusi dal campo, non per questo sono stati esclusi dalla possibilità di fare una grandissima carriera. Con 11 Zanetti, diceva l'amico prima, non si riempirebbe San Siro. Secondo me ha assolutamente ragione. I numeri della Champions. I numeri della Champions. E oggi parliamo dell'Olympique Marsiglia, che è stata la prima squadra a vincere la Champions League, perché fino allora si chiamava Coppa dei Campioni. Era la stagione 1992-1993 e il Marsiglia sconfisse in finale il Milan per 1-0. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. E noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Tutti Convocati, che torna domani a partire dalle 14 in punto. Domani con voi ci sarà Carlo Genta, che ritorna dalla sua settimana di riposo. Io ringrazio Franco Piantanide in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con lo sport su Radio 24 è per domani alle ore 14.